Beh, il mio intervento sarebbe articolato in tre momenti. Prima do sommariamente alcune informazioni sulla fonte, la visita pastorale di Ludovico Madruzzo, e poi faccio alcune considerazioni sulle visite pastorali, sulla fonte in quanto tale, sulla possibilità di usarla col computer, insomma, di computerizzarla, per finire raccontando un po' la mia esperienza specifica, insomma, il lavoro di questi anni. L'interesse per le visite pastorali e la successiva nascita del mio amore e odio per il computer ha una data d'inizio, 1 luglio 1987, quando entrai all'Istituto Storico Italo-Germanico con una borsa di ricerca dal titolo impegnativo, visite pastorali e processi di attuazione del Concilio di Trento. Si trattava di studiare la visita pastorale indetta dal cardinale Ludovico Madruzzo alla diocesi di Trento e attuata negli anni 1579-81. Questa visita si rivela particolarmente importante per vari motivi. È la prima che si svolge dopo il Concilio di Trento, è immediatamente successiva ad un periodo decennale di abbandono e anarchia del Principato Vescovile, conseguente alla contesa fra il Vescovo Ludovico e Ferdinando, Arciduca d'Austria e Conte del Tirolo, contesa per il controllo politico del Principato. Interessa il territorio dell'intera diocesi, sia la parte italiana che quella tedesca. Si tratta di una visita condotta con grande diligenza e precisione, in grado quindi di fornire moltissime informazioni preziose e articolate, non limitate ai tradizionali campi della pastoralità e della moralità. Qualche esempio: organizzazione ecclesiastica della diocesi, stato economico patrimoniale delle chiese e del clero, pratica religiosa, personale ecclesiastico, associazioni laicali e locapia, eccetera. La fonte e gli atti visitali relativi alla visita a Madruzzo sono conservati presso la Curia Arcivescovile di Trento e comprendono 6 volumi per circa 2.400 fogli complessivi. Sono in buono stato di conservazione e non presentano complessivamente difficoltà di lettura. La lingua prevalente è il latino ecclesiastico, con l'inserimento di parole in dialetto. Alcune parti sono in volgare, in particolare gli ordini e le commissioni lasciate dai visitatori agli amministratori delle chiese e delle comunità e le disposizioni dei deposizioni dei laici, riguardanti alcune questioni legate alla visita, nei processi per questioni matrimoniali, su problemi di eredità, per definire la proprietà della chiesa, per rendere testimonianza sull'operato e comportamento dei loro sacerdoti. I verbali di visita sono stati rilegati in volume seguendo il criterio della divisione geografico-amministrativa del territorio. Non è stato quindi rispettato né l'ordine cronologico di svolgimento della visita, né l'itinerario seguito dalle numerose commissioni visitali, alle quali vengono assegnate zone diverse. Nella stesura definitiva, inoltre, non sono stati trascritti né l'eventuale questionario né i documenti preparatori alla visita. 2 grossi volumi miscellanei, conservati presso la Biblioteca Comunale di Trento, colmano almeno parzialmente questa lacuna, in quanto raccolgono appunti originali, lettere, trascrizioni di documenti, decreti e altro materiale coevo e successivo alla visita. Il Vescovo Ludovico Madruzzo non adempie personalmente con costante alla visita pastorale, perché spesso assente dalla diocesi. Si limiterà a visitare personalmente il Duomo di San Vigilio e il Capitolo e la Ca' di Dio, che è l'ospedale dei Battuti di Trento. Successivamente si recherà personalmente solo in alcuni paesi della diocesi per celebrare la messa e presentare al popolo e al clero riuniti gli scopi della visita. La concreta attuazione della visita pastorale è dunque delegata alle commissioni visitali. I visitatori delegati sono molti, scelti fra i collaboratori abituali del Vescovo, il vicario in spiritualibus, il vescovo suffraganeo, l'arcidiacono del capitolo del Duomo di Trento. A questi il vescovo affianca alcuni pievani che si distinguono rispetto al restante clero per dottrina e moralità e per la loro conoscenza del territorio e delle popolazioni. Infine vengono nominati visitatori anche 2 personaggi legati alla corte vescovile. Ogni commissione incaricata della visita alle pievi e parrocchie di una determinata porzione di territorio è composta in genere da 2 o 3 delegati vescovili, affiancati da un notaio e a volte da un sacerdote regolare, incaricato di tenere l'omelia alla messa che segna l'inizio della visita pastorale. accanto alle commissioni incaricate di percorrere la diocesi, Madruzzo istituisce una commissione specifica per la visita agli ospedali e l'Ocapia, un'altra commissione eretta dal Vescovo in occasione della visita è la Congregatio Spiritualis, che si raduna nel periodo della visita e assume i compiti di organo di coordinamento e controllo della visita stessa. Tutte le chiese, salvo poche eccezioni, poste all'interno del territorio plebanale, la pieve costituisce ancora l'unità religiosa amministrativa, vengono visitate rispettando un ordine gerarchico, chiese matrici, curazie, cappelle campestri, eremi, eccetera. Anche la visita di Madruzzo si attiene ad un'impostazione, ad un ordine ormai consolidati dalla tradizione. Edifici sacri, personale ecclesiastico e laici, sono le tre divisioni. Dopo la messa e l'adorazione al Santissimo Sacramento si inizia con un esame accurato dell'immobile, così come si presenta all'esterno e all'interno, registrando pregi e difetti ed eventuali lavori di restauro o modifica da portarvi. All'interno dell'edificio ecclesiastico particolare cura è posta alla verifica della collocazione del Santo Sacramento e allo stato del fonte battesimale. Seguono poi gli elenchi di altari, oggetti sacri, arredi liturgici, con le relative note sullo stato di conservazione, manutenzione, acquisti e migliorie che si rendono necessari. La seconda parte della visita è riservata al clero. Molto dettagliato, in genere, è l'esame del pievano. Le domande vogliono accertare la sua identità, lo stato giuridico, la regolarità delle sue lettere formate, la preparazione culturale sacerdotale, la moralità, la pastoralità, la gestione del patrimonio beneficiario. Le altre figure di sacerdote, invece, non emergono in piena luce, rimangono in ombra, salvo il caso, non infrequente del resto, di specifiche denunce a loro carico, in grado di mettere in moto la complessa macchina degli accertamenti, delle inquisizioni, dei processi e delle sentenze. Al pievano o al sacerdote titolare della cura d'anime viene anche rivolta la domanda generica sullo stato religioso-morale dei parrocchiani, che ottiene spesso un'altrettanto generica risposta. Qualche concubino, qualche persona che non si confessa, ma che può acquistare più spessore e maggiore spazio negli atti visitali se il pievano è loquace o ritiene di aver subito qualche torto. Già comparsi come soggetti passivi attraverso le parole del prete, i laici acquistano o si conquistano un ruolo attivo nella terza parte della visita. E sono proprio le parole dei laici, a mio parere, che caratterizzano in maniera qualitativamente importante la visita madruziana. Sono rappresentanti della comunità rurale che presentano documenti e liste di gravamina, o che sono chiamati a rendere testimonianza sotto giuramento sul comportamento del parroco o sul buon andamento della parrocchia. Sono amministratori della fabbrica della chiesa, di confraternite, monti di pietà, ospedali, ma sono anche persone comuni a cui vengono chieste informazioni o delazioni sulle questioni più diverse, chiamate a render conto di comportamenti personali negativi o che si rivolgono spontaneamente ai visitatori per chiedere giustizia. Prima di render conto delle concrete fasi di sviluppo della ricerca e delle soluzioni adottate nel trattamento computerizzato della visita, vorrei proporre alcune riflessioni di carattere generale che hanno preceduto e accompagnato tutto il corso del lavoro e che sono relative ai problemi di gestione dei dati degli atti visitali. Si tratta di spunti, alcuni dei quali molto scontati per chi conosce la fonte, legati da un lato alle caratteristiche interne della fonte visitale, d'altro lato al trattamento delle informazioni presenti. Credo infatti che agli storici, in quanto storici e non esperti di informatica e di software, tocchi innanzitutto la riflessione il più possibile approfondita e collettiva sui problemi di natura teorica ed euristica, caratteristiche della fonte, buon utilizzo delle informazioni che la fonte contiene, in questo senso. Le soluzioni applicative sono in qualche misura conseguenti e si rivelano efficaci nel momento in cui sono sufficientemente chiari i problemi e i fini della ricerca stessa. Un primo punto riguarda la diversità fra l'analisi del contenuto, cioè la fonte intesa come strumento di ricerca, e la presentazione della fonte. Un obiettivo che accomuna le nostre diverse esperienze, credo, consista nel tentativo di individuare un metodo di lavoro che permetta l'esame il più possibile ampio degli atti visitali relativi ad una o più visite pastorali. Atti visitali individuati come fonte privilegiata per una concreta ricerca storica. ricostruzione della struttura di una diocesi, condizioni religiose e morali, storia dell'arte e dell'architettura, economia, confraternice, eccetera. La fonte in questa prospettiva viene usata, studiata, soppesata, analizzata, scomposta e ricomposta per ricavarne il maggior numero di informazioni possibili, sia di tipo qualitativo che quantitativo. La fonte visitale dunque è un mezzo, uno degli strumenti del lavoro di ricerca, non il fine di un lavoro storico, filologico, archivistico. In questo caso, allora, il problema di mettere a disposizione per la ricerca futura una fonte trascritta, o registrata, o riassunta, o indicizzata, o repertoriata, passa in secondo ordine. Seppur le due cose si possono completare a vicenda, il fine che si vuole raggiungere, utilizzo per la ricerca, oppure messa a punto di indici o repertori, è diverso. In questo caso, dunque, l'obiettivo perseguito prevede, da un lato, la lettura il più possibile puntuale e complessiva della visita per cercarvi delle risposte a precise domande storiche e, d'altro lato, la ricerca dei mezzi tecnici in grado di facilitare e migliorare il nostro approccio alla fonte. Un secondo problema riguarda l'individuazione dell'obiettivo della ricerca e le caratteristiche della fonte. La lettura e schedatura manuale della fonte o la preparazione di un programma adatto per ordinare meglio le informazioni presuppone il complesso momento iniziale in cui si deve giungere ad un'individuazione il più possibile chiara e precisa degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Questa operazione implica una preesistente buona conoscenza della totalità della fonte, una lettura attenta che abbia tenuto conto degli elementi essenziali e caratterizzanti i verbali di visita. Infatti, pur essendo in presenza di una fonte unica ed omogenea nelle sue linee di fondo, le caratteristiche particolari di ciascuna visita, come degli atti corrispondenti, possono essere molto diversi. Impostazione del verbale, trascrizione di testimonianze di soggetti diversi o di documenti, verbali di processi, numero di importanza dei referenti, dal parroco al nobile locale, dagli amministratori delle chiese ai semplici parrocchiani, laconicità o al contrario prolissità delle informazioni, impostazioni diverse nella conduzione della visita al variare dei visitatori. Dunque, se da un lato non è proficuo pensare ad un programma che si adatti allo studio di tutte le visite pastorali, d'altro lato può rivelarsi un errore affidarsi preventivamente ad un programma già confezionato ed in questo adattare, ingabbiare, necessariamente comprimere e ridurre il materiale e le informazioni ricavabili dagli atti visitali. Un programma quindi possibilmente dovrebbe essere da un lato standardizzato, per permettere un confronto proficuo fra visite pastorali diverse dal punto di vista temporale e spaziale, dall'altro flessibile, capace cioè di accogliere quelle particolarità non prevedibili a priori della visita. Un terzo punto riguarda la scelta della dimensione da studiare. La visita pastorale o le visite pastorali possono essere considerate uno, tenendo come unità di misura, dalla più piccola alla più grande, le divisioni amministrative ecclesiastiche, chiesa, parrocchia, pieve, decanato, diocesi. Ricostruzione diacronica della storia di una parrocchia o di un paese attraverso visite pastorali diverse. Questo può essere un obiettivo della ricerca. Un secondo obiettivo, seguendo le informazioni ricavabili dalla visita su uno o più temi specifici. Stato del clero, dotazione sacra delle chiese, sviluppo delle confraternite, eccetera. In realtà questa distinzione è solo funzionale al discorso perché i due momenti vanno di pari passo, cioè secondo me non si può ricostruire alcunché se non si ha come punto di riferimento il quadro politico istituzionale, sociale ed economico. D'altro lato una storia istituzionale senza riferimento agli uomini e ai problemi degli uomini che vivono all'interno delle strutture e si mettono in rapporto col potere diventa una pura astrazione. Anche in questo caso le esigenze della ricerca impongono che le due letture non vengano disgiunte. Si dovranno cioè raccogliere le informazioni in maniera che sia possibile in ogni momento della ricerca e dell'elaborazione dei dati sia avere le informazioni riguardanti la visita ad una chiesa o parrocchia sia quelle riguardanti uno specifico tema. Con la schedatura manuale questo lavoro risulta pressoché impossibile o estremamente laborioso. Un altro problema, quello delle fonti di supporto, ma questo è molto, insomma, ognuno di noi lo conosce, ne ha parlato anche. Mi riferisco ai verbali di processi, alle lettere inviate ai visitatori o al vescovo su problemi. La predicazione, la dottrina, la gestione del patrimonio, visite scartate, insomma tutto ciò che non ha trovato posto nei verbali ufficiali della visita. Nell'analisi computerizzata, questa è una domanda che faccio, vanno considerati sullo stesso piano degli atti ufficiali, e in questo caso qual è il termine ultimo, insomma, oppure tenuti da parte come materiali di supporto, ma spesso queste fonti sono preziosissime, non solo per integrare, ma anche per capire e collocare molte informazioni presenti negli atti e non approfondite. Un altro problema riguarda il dato quantitativo qualitativo. Un limite del programma, anzi dei programmi utilizzati per il mio lavoro, un problema che non è stato pienamente risolto nell'esperimento di elaborazione computerizzata della visita Madruzzo, che costituisce anche, a mio parere, una delle difficoltà di fondo dell'uso del computer nell'analisi della visita pastorale, consiste nella necessità di tener conto nello stesso tempo di due istanze, che a volte, nell'eccessiva rigidezza dei programmi, sembrano inconciliabili, il dato quantitativo e il dato qualitativo. Un esempio fra i molti che potrebbero essere fatti. Il problema del concubinato dei preti, una realtà presente in particolare nei secoli XV e XVI, a cui o è stata data eccessiva importanza in senso moralistico e scandalistico, utilizzata a sostegno della tesi dell'imperante corruzione del clero e dei costumi, oppure che si è stati tentati, forse per lo stesso ordine di motivi, di ignorare o sottovalutare. Ebbene, su questo problema sarà importante contare i concubini, sapere ad esempio che in diocesi di Trento, secondo le informazioni fornite dalla visita, è stato individuato circa un 20% di sacerdoti scoperti tali. Ma è altrettanto importante, e spesso non così agevole, capire il perché, le motivazioni in senso lato del fenomeno. La concezione morale dei sacerdoti inquisiti e dei visitatori, ad esempio, le difficoltà di ordine pratico dei sacerdoti, necessità di aiuto domestico, solitudine, lontananza dalla famiglia d'origine, eccetera, il loro rapporto con la convivente e con i figli, l'atteggiamento della comunità verso il prete concubino. Queste informazioni si possono cogliere, e purtroppo solo raramente, da quella che ho definito un'analisi qualitativa della fonte, cioè da una lettura puntuale nelle pieghe del discorso cancellieresco, omettendo assieme elementi apparentemente disomogenei e lontani. Qualche esempio: se i sacerdoti si giustificano o accusano o si accusano di questo comportamento, se i parrocchiani interrogati condannano il concubinato o lo tollerano e per quali motivi, se il sacerdote è secolare o regolare, se vive nella famiglia d'origine oppure approdato a Trento, in questo caso provenendo anche da molto lontano, se i visitatori si comportano in maniera diversa e ricorrono a pene e censure diverse nel caso il sacerdote sia un canonico, un pievano o un semplice cappellano. In questo caso, allora, come in molti altri, è necessario aver presente la documentazione visitale nella sua globalità, senza riduzioni seriali nella variante logica vero-falso fornita da un programma di database. Mi sembra necessario, inoltre, avere a disposizione un programma che permetta di recuperare e controllare velocemente informazioni presenti negli atti in ambiti diversi. Necessità dell'incrocio delle informazioni. Un esempio di ciò che intendo per incrocio di informazioni può essere costituito dalle confraternite. In un ipotetico verbale di visita ad una parrocchia esiste una parte del questionario dedicata esplicitamente all'esame delle confraternite presenti. Le informazioni ricavabili possono essere le seguenti. In realtà quantità e qualità delle informazioni possono variare non solo da una visita all'altra, ma anche all'interno della stessa visita, quindi diventa un problema ulteriore. Comunque le informazioni possono essere l'intitolazione della confraternita, la sua attività specifica, la situazione economica, il numero e lo status sociale degli aderenti, questo più raramente, altri tipi di informazione. In realtà possono esistere alcune parti di verbali di visita che direttamente o indirettamente forniscono informazioni preziose anche sulle confraternite. Ad esempio, la visita all'edificio. Altari o cappelle nella chiesa appartenenti ad una confraternita. In questo caso possiamo avere notizie che riguardano lo stato di manutenzione dell'altare, se la dotazione sacra è ricca o povera, se le immagini iconografiche possono attestare la predilezione per un santo particolare, eccetera. All'interno della parte dedicata al culto, ad esempio quante messe vengono celebrate all'altare confraternale, con quale frequenza. Nella parte dedicata al clero, può esserci un sacerdote assunto dalla confraternita, ci possono essere informazioni su quanto viene pagato, qual è lo status del sacerdote, quali sono le sue mansioni all'interno della parrocchia. E l'elenco potrebbe continuare tenendo conto tanto delle caratteristiche particolari della visita quanto della nostra capacità di porre domande al documento. A volte invece una sola pagina del verbale di visita può far balenare problemi e suggestioni che da soli potrebbero costituire oggetto di una nuova specifica ricerca. Nella parrocchia di Santa Maria Maggiore di Trento, il parroco, nel corso dell'esame visitale, si rivolge ai visitatori, sottoponendo loro una lagnanza specifica. La domenica, ben pochi parrocchiani ascoltano la messa nella chiesa parrocchiale, preferendo frequentare quella della confraternita nuova, che si celebra nella cappella attigua. Di questo il parroco è molto dispiaciuto, tanto più che in questo modo, sono sue parole, la fabbriceria della chiesa viene defraudata delle elemosine offerte dai fedeli. Sollecita quindi i visitatori ad intervenire e propone due soluzioni. O nei giorni festivi la messa confraternale viene celebrata nella chiesa parrocchiale, oppure viene celebrata nella cappella della confraternita, ma dopo che c'è stato l'offertorio. I visitatori deliberano che il popolo debba ascoltare la messa festiva nella chiesa parrocchiale in modo che la fabbriceria non venga privata delle offerte. Le domande possibili suscitate da questo intervento, come si vede, possono essere moltissime. I rapporti che legano il parroco ai laici e in particolare ai laici organizzati in confraternita. Il tema molto noto della centralità della parrocchia dopo il Concilio di Trento, con tutte le implicazioni conseguenti. Le modalità del culto, la concezione pastorale del parroco, il problema del controllo e della gestione dei redditi e delle entrate della Chiesa, a lungo conteso con alterne vicende fra clero e laici. Un secondo esempio può riguardare un tema, quello delle eresie, per il quale la fonte visitale si è rivelata spesso poco proficua o deludente. Questa considerazione, tranne eccezioni, è sicuramente vera. Le visite pastorali non sono pensate né realizzate per inquisire specificatamente gli eretici. Nonostante ciò, alcune visite pastorali possono essere rivalutate anche in questa chiave, se ad esempio l'ottica di lettura si sposta dalla caccia al vero eretico alla ricostruzione dei meccanismi di indagine e di controllo sulle idee e sui comportamenti personali e collettivi. Dagli atti visitali può emergere con evidenza quel complesso e ramificato sistema di delazione istituzionalizzata e apparentemente inefficiente e inefficace, ma proprio perché inefficiente e incontrollabile, in grado di creare nella società una sottile rete di paura e insicurezza che favorisce il conformismo e l'ossequio all'autorità religiosa e politica. Questi esempi avevano lo scopo dunque di dimostrare come la schedatura manuale o computerizzata e una griglia rigida di codici e sottocodici può costituire un limite per la ricerca. Apparentemente appaga il nostro bisogno di rendere la fonte e più in generale la multiforme realtà chiara e razionale, quantificabile, ma in questo modo si rischia di perdere di vista la complessità di un fenomeno, le connessioni, le ricorrenze, i rapporti che legano un singolo elemento a tutti gli altri. Vorrei concludere questa parte con due piccole osservazioni su problemi più interni, legati strettamente alla lettura e comprensione dei verbali di visita. Il primo è il problema dell'identificazione. Si riferisce in particolare a quella parte della visita pastorale rivolta ad personam ed è il problema di distinguere, prima all'interno del verbale di visita, per poi riportarlo in una schedatura manuale o computerizzata, chi fornisce le informazioni e in che modo. I verbali, infatti, riportano le posizioni e le osservazioni di persone che ricoprono ruoli diversi sia all'interno della gerarchia ecclesiastica che delle comunità parrocchiali o di villaggio. I giudizi del vescovo e dei visitatori, le risposte e le osservazioni dei parroci, le testimonianze dei laici, i giudizi di sacerdoti su altri sacerdoti. Il notaio, inoltre, pur privilegiando il tono scarno e disadorno burocratico della cancelleria vescovile, inserisce comunque nei verbali una pluralità di linguaggi. Trascrive in volgare alcuni documenti o testimonianze rese dai laici, riporta in discorso diretto le risposte fornite dai parroci, verbalizza in forma sintetica o più analitica le osservazioni e i giudizi espressi dai visitatori, ad esempio il parco è ineptus o sufficiente, la chiesa si trova in pessimo stato. Oppure, è sempre il verbalizzante, può rifarsi alle voci, ai si dice, raccolti chissà dove. Nel momento in cui si intendono utilizzare queste notizie, diventa molto importante, a mio parere, indicare con esattezza in sede di indicizzazione e tenerne conto in sede di elaborazione dei dati, tanto dei vari soggetti che delle differenze linguistiche riscontrabili nei verbali. Il problema dei giudizi di merito. Il problema dell'identificazione delle persone che di volta in volta passano sulla scena della visita pastorale si lega strettamente a quello dei giudizi di merito su persone e cose. Durante la lettura degli atti visitali non è raro imbattersi in vere e proprie contraddizioni, in valutazioni anche diametralmente opposte, quando si tratta, ad esempio, di esprimere un giudizio sulla preparazione sacerdotale e pastorale del parroco o sulla sua condotta di vita. È ignorante è il giudizio espresso dai visitatori dopo l'esame sulla preparazione culturale e teologica. Non predica, non si confessa, ha in casa una serva sospetta. Sono ulteriori elementi negativi a sfavore del sacerdote che il notaio mette agli atti. È un buon parroco, non abbiamo nulla di cui lamentarci, affermano dal canto loro i laici interrogati. Come considerare queste differenze di valutazione? Quale peso dare alle varie testimonianze? In altre parole, sulla base di quanto emerge dalla visita, è possibile dare dei giudizi di valore del tipo il clero ignorante, molti parroci sono di scarsa moralità oppure sono dei buoni pastori? È chiaro che in questo caso non si tratta tanto di quantificare, ma di stabilire un metro di valutazione dei vari giudizi espressi. Anche in questo caso, inoltre, nel momento in cui si pone ordine nelle informazioni, sia il questionario che la schedatura dei dati vanno impostati tenendo conto di queste caratteristiche della fonte. Tornando all'impostazione del mio lavoro, una prima fase è stata dedicata alla compilazione manuale di schede che tenevano conto, come nell'impostazione della visita, della dimensione giuridico-territoriale della pieve. Una scheda maggiore era riservata al paese sede della chiesa matrice. Singole chiese e schede riguardavano poi tutti gli altri paesi, con le relative chiese inserite nel territorio plebanale. In ogni scheda ho registrato il volume degli atti e il numero dei fogli relativi ad ogni paese e chiesa, la data della visita, il nome dei visitatori. In ogni scheda, inoltre, le informazioni venivano ordinate per temi, tenendo conto del questionario proposto da Turchini Mazzone. Trattandosi di una schedatura manuale, il questionario si è presto rivelato da un lato troppo dettagliato, con il rischio di un'eccessiva frammentazione del discorso, dall'altro privo di alcune voci che per le caratteristiche della visita si rivelavano necessarie. Ho quindi apportato alcune modifiche, peraltro nel complesso marginali, che non vi racconto. La parte della visita che mi ha creato più difficoltà nella schedatura, sia manuale che con il computer, è stata quella relativa al clero e alle testimonianze dei laici. Per quanto riguarda il clero, credo che il problema non sia limitato alla visita pastorale del Madruzzo, ma riguardi più in generale il problema dello stato ecclesiastico in età moderna. Ci si trova in presenza di stati giuridici e canonici diversi, di ruoli diversi all'interno della parrocchia, tanto che a volte può risultare difficile individuare chi esercita la cura d'anime, sempre ammesso che qualcuno la eserciti. Ci sono sacerdoti titolari del beneficio parrocchiale non residenti, sostituti con i metodi e criteri più diversi e fantasiosi, preti con benefici sine cura, preti assunti da altri preti, da signori feudali, da comunità rurali, retribuiti tramite locazione del beneficio, con salari, in natura, con l'attribuzione di diritti vari. Sembra di voler classificare qualcosa che non si presta ad alcuna catalogazione, di volere por ordine in un mondo che ordinato non era. E lo stesso discorso può valere anche per l'ordinamento della diocesi o per le questioni economiche. il questionario del canto suo sembra essere interessato solo al parroco e non prevede che nella parrocchia possano essere presenti altre figure di sacerdoti che, come il parroco, vengono ascoltati, sui quali vengono raccolte informazioni anche abbondanti. La soluzione adottata, attribuire un numero ad ogni sacerdote, riportare il numero quando ad esempio volevo trascrivere le sue risposte riguardanti l'attività pastorale o la moralità, non si è rivelata per niente funzionale, anche se non avete capito lo stesso, non funziona. D'altro lato non avevo altre possibilità, perché se mantenevo unite in un'unica scheda tutte le informazioni relative ad un sacerdote, come potevo poi, ed era quello che mi interessava, esaminare complessivamente l'attività pastorale o la moralità di tutto il clero diocesano? Il problema già esposto di distinguere chi fornisce le informazioni su questioni specifiche è stato risolto inserendo delle sigle, TP, testimonianza del Pievano, TC, testimonianza del curato, TL, testimonianza dei laici. Per le testimonianze di sacerdoti su altri sacerdoti, essendo relative a più questioni, se frate, qual è la provenienza, se è una concubina, se ha subito censure, eccetera, invece ho preferito predisporre un'apposita voce nel questionario. Nello stesso modo mi sono regolata anche nel caso dei laici per mantenere integre per quanto possibile le loro deposizioni e i gravami ne presentati. I programmi. Dopo più di un anno, il tempo necessario per portare a termine il lavoro di schedatura manuale, quando mi accingevo ad elaborare le informazioni e descriverne i risultati, mi sono resa conto che l'ordine con il quale avevo faticosamente sistemato le informazioni si rivelava più apparente che reale. Le informazioni, in altre parole, erano sì ordinate per argomento, seguendo le tematiche presenti nella visita, ma essendo racchiuse nella scheda per pievi, si rivelavano difficili da maneggiare, valutare, quantificare. Il risultato del lavoro in quel momento era costituito da un forte senso di vertigine e frustrazione. A questo punto la scelta di passare all'uso del computer mi sembrava obbligata. Il primo software che ho utilizzato è stato dunque il DB3 Plus, un programma molto conosciuto di database. Il DB3 può essere usato per tutti gli aspetti della visita che possono essere quantificati. Per la creazione di indici, per la creazione di tabelle. Nell'allegato 1 ho riportato la struttura di alcuni file in DB3 e un esempio molto banale di un indice che si può ricavare. Nel passaggio all'uso del database si è reso necessario, in vista di un'identificazione veloce, assegnare ad ogni chiesa della diocesi un codice specifico, distinguendo fra sede di pieve o parrocchia e chiese filiali soggette. Questo permette ora il riconoscimento immediato della struttura di base della diocesi. Altri campi importanti nel file diocesi sono la sede, il nome, cioè del paese o località nei quali si trova la chiesa, e lo stato giuridico della chiesa stessa, se pieve, filiale, eccetera, eccetera. Naturalmente questi campi, una volta completata l'emissione dei dati, possono essere immediatamente collegati con altri file, in maniera che le informazioni di fondo, che sono il luogo, l'intitolazione della chiesa e lo stato giuridico, possono essere sempre presenti. Il DB3 si è rivelato molto utile quando si vogliono incrociare informazioni appartenenti a campi diversi. Un esempio, rifacendomi ancora una volta ai sacerdoti concubini. Posso recuperare l'elenco nominativo di tutti i sacerdoti concubini, conoscendo anche in quale parrocchia risiedono, quale funzione esercita, da dove provengono. Posso fare richieste anche più complicate, l'allegato 2 che vi ho dato. Richieste più complicate, cioè verificare ad esempio se ha una qualche validità o è solo un preconcetto l'idea che i frati di provenienza extradiocesana sono pericolosi e in specifico se rispettano meno il voto di castità dei colleghi diocesani. È sempre la seconda parte dell'allegato 2. Il DB3 è la tabella in cui avete il numero dei frati, cioè il nominativo dei frati concubini. Il DB3 inoltre permette di accorpare, scorporare, modificare, riordinare sia i file sia all'interno dei singoli file i campi previsti. DB3 però non è sufficiente per il lavoro complessivo, perché è un programma studiato pressoché esclusivamente per la creazione di una banca dati, non per la gestione dei testi. Prevede infatti 5 tipi di campi, non so se dilungarmi molto in queste informazioni perché credo che il database sia conosciuto pressoché da tutti. Beh, comunque ci sono 5 campi, in realtà il campo in cui si possono immettere dei testi è solo il campo carattere, il massimo di carattere è 254, quindi significa 3 righe, 4, quindi è impossibile immettersi dei testi che superano le 4-5 righe. Il DB3 dunque si rivela immediatamente un programma utilissimo per la gestione di una banca dati, ma non risolveva il problema dei testi, la possibilità cioè di raccogliere e ordinare non dati ma informazioni lunghe, discorsi, considerazioni personali, testimonianze particolari, processi su un medesimo problema, sparse nei verbali di visita, ordinare cioè quegli aspetti che ho chiamato qualitativi. Questo dilemma è stato parzialmente risolto con il collegamento al programma di database di un programma di gestione dei testi creato appositamente. La struttura portante che funge da collegamento fra il DB3 e il programma di gestione dei testi è costituita dal file diocesi di cui ho già parlato. Questo costituisce il primo livello, quello della dimensione strutturale geografica. La seconda dimensione gestita dal programma per i testi è quella tematica. In questo caso ho recuperato il lavoro manuale e il questionario Turchini-Mazzone assegnando dei codici ai vari argomenti. La procedura risulta dunque la seguente. Emetto il codice relativo alla chiesa e il codice relativo al tema sul quale voglio inserire le informazioni. Il programma mi presenta un numero X di pagine nelle quali inserire i testi. Una volta completata l'emissione dei testi è possibile, digitando il numero di codice della chiesa, richiamare sul video o stampare schede, una per ogni argomento, contenenti tutte le informazioni relative alla visita in una parrocchia o chiesa. Ed è l'esempio che ho portato nell'allegato 3. Digitando il codice tematico, richiedere tutte le informazioni relative a quel tema, ad esempio giust patronato oppure l'identità dei parroci, in tutte le chiese della diocesi. Limiti del programma, ho subito finito. Penso che tutti noi siamo convinti dell'utilità dell'informatica applicata alla ricerca storica. La difficoltà però, perché questa affermazione non rimanga puramente teorica, ma permetta di raggiungere effettivi risultati pratici, sono diverse. Innanzitutto gli storici e le ricerche storiche sono molto diverse, sia nelle finalità che nel tipo di fonti utilizzate. Questo significa che un programma pensato per un determinato progetto di ricerca non necessariamente si adatta anche ad altri tipi di ricerca. Negli ultimi anni si sono notevolmente diffuse, molto meno in Italia, le riviste, i libri, i convegni e i resoconti su ricerca in corso, che propongono programmi sempre più complessi e sofisticati. Ma quanti di noi sono in grado di valutarli e successivamente, sempre ammesso che si riescano ad acquistare o copiare, a studiarli, a usarli al meglio? Senza voler offendere nessuno, siamo ancora simili, credo, a primitivi, attratti dalla magia della scienza e della tecnica, di cui però non riusciamo ad afferrare gli intimi meccanismi. Viviamo ancora il nostro rapporto personale con il computer come una sorta di gioco, che però a lungo andare può rivelarsi anche ripetitivo, noioso e frustrante. L'improvvisazione e lo sperimentalismo, che conduce all'arenarsi o svilirsi di tanti lavori di ricerca, penso siano imputabili anche alla mancanza di un supporto tecnico qualificato, in grado di fornire non solo il programma che risponda alle esigenze specifiche della ricerca, ma che possa guidare e sovrintendere alle varie fasi. Per ottimizzare l'assistenza tecnica, tenuto anche conto dei tempi e dei costi, sembra inevitabile il passaggio, ahimè, dal lavoro individuale al lavoro d'equipe su progetti complessivi. Anche in questo caso però senza rinunciare ad un sano individualismo, senza farsi espropriare dei mezzi di produzione, progetto, la finalità, le domande, le curiosità, per farsi asservire alla catena di montaggio del lavoro storico. Grazie moltissimo, la qualità era presente almeno quanto la quantità in questo discorso, nel senso che c'è intrisa dell'esperienza che ha vissuto abbastanza anche con fatica, ma spero qualche volta, con qualche momento di emozione in questi anni. Grazie.